America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. La Fed ha perso la pazienza. Beh, potrebbe essere un gioco di parole. Ha perso il termine pazienza. In realtà, a parole, ha voluto dimostrare, che forse sarà ancora paziente per qualche tempo. In other words, just because we remove the word patient from the statement doesn't mean we're going to be impatient. Ecco, avete sentito la Yellen, il governatore, il presidente della Federal Reserve americana, della Banca Centrale americana, che dice: attenzione, perché il fatto che abbiamo rimosso la parola paziente dalla nostra dichiarazione non significa che diventeremo impazienti. Allora, qual è il gioco di parole? Negli ultimi comunicati la Fed continuava a dire saremo pazienti in materia di tassi di interesse. A un certo punto la Yellen aveva chiarito che questo termine essere pazienti significava che per almeno due incontri, dunque per almeno 12 settimane dall'ultima dichiarazione in cui c'era il termine pazienza, non ci sarebbero stati aumenti di interesse. Ora che il termine è stato rimosso, si pensa, l'aumento potrebbe esserci già al prossimo incontro della Federal Reserve. Però la Yellen ha voluto chiarire che non sarà necessariamente così, che ormai questo gioco semantico ha fatto il suo tempo e che ci si affiderà soprattutto alle questioni economiche. I mercati hanno interpretato questa posizione della Fed come un messaggio rassicurante e dunque sia l'indice Dow Jones che l'S&P 500 sono aumentati. Ma vediamo quali sono i dati che ci ha dato la Federal Reserve e la Yellen per ciò che riguarda l'economia americana. Intanto ci si aspetta per il 2015 una crescita del PIL tra il 2,3 e il 2,7%, il tasso di disoccupazione invece migliora tra il 5 e il 5,2% per il 2015, meglio di quel 5,2-5,3% previsto in precedenza. Per l'inflazione, il dato del 2015 dovrebbe attestarsi fra lo 0,6 e lo 0,8%, sempre più basso dell'1/1,6% stimato in dicembre, soprattutto molto più basso di quel 2% che sarebbe l'obiettivo inflazionistico per la Federal Reserve. Meantime, Benjamin Netanyahu, with what appears to be a stunning come from behind victory, poised to win his fourth term as Israeli Prime Minister. Elezioni israeliane, ormai se ne è parlato, Netanyahu ha vinto, però ci sono state delle reazioni negli Stati Uniti, reazioni miste sia da parte dell'amministrazione che da parte di molti esperti. E vediamo che cosa sta capitando, perché il problema qui è che la relazione tra Obama e Netanyahu vada a irrigidirsi ulteriormente, cosa che sarebbe sbagliata. Cominciamo col fatto che Barack Obama non ha chiamato Netanyahu per congratularsi, ha detto che lo farà nei prossimi giorni, ma David Simon, un suo consigliere, si è congratulato con il popolo israeliano per il buon funzionamento della democrazia, ma non con Benjamin Netanyahu, che invece ha vinto le elezioni. E visto che Israele è una democrazia da sempre, il messaggio è un po' sorprendente, perché è molto simile a quello che gli USA, per esempio, mandano in Afghanistan per il successo delle elezioni. Ha invece chiamato John Kerry, si è congratulato con Netanyahu, però poi l'amministrazione ha espresso preoccupazioni per il tono divisivo usato dal primo ministro israeliano dopo le elezioni. Dobbiamo prendere atto che il presidente degli Stati Uniti è intervenuto direttamente nelle elezioni israeliane, cosa che in genere l'America non fa, si tiene sempre fuori dalle elezioni interne per evitare turbolenze o denunce di intrusione. Eppure Obama invece è intervenuto come nessun presidente prima di lui aveva fatto, ha cercato apertamente di aiutare l'opposizione e ha sua volta accusato il primo ministro israeliano, pensate, di dividere democratici e repubblicani su Israele. Posizioni inusuali, naturalmente lecite, perché un capo di Stato e di governo come Barack Obama sceglie di fare quello che vuole. Il problema è che però questa sua posizione poi non ha funzionato, anzi devo dire semmai ha aiutato Netanyahu a raccogliere simpatie attorno alla sua candidatura, soprattutto dalle frange della destra. Ora Washington dovrà prendere atto di quel che è avvenuto alle elezioni e secondo me dovrà agire di conseguenza, perché se da una parte è molto preoccupante che lo Stato di Israele, tradizionalmente ambiente laico, aperto, progressista, abbia visto una forte ascesa dei partiti religiosa, e dall'altra c'è una possibilità, secondo me minima in effetti, però c'è questa possibilità su cui Obama dovrebbe poter scommettere, e cioè che tradizionalmente solo un primo ministro che proviene dalla destra, un falco che parte con una linea durissima, è quello che poi può fare dei passi in avanti. Lo abbiamo visto con il governo, per esempio, di Yitzhak e Rabin. Alcuni commentatori americani, Tom Friedman per esempio, auspicano che le promesse di Netanyahu si sciolgano come neve al sole. Non so se questo succederà. Altri dicono che forse Netanyahu, questo lo auspica la stessa amministrazione, lo stesso presidente israeliano, faccia una coalizione con il partito di Herzl per avere un governo di unità nazionale. Insomma, non credo che questo succeda. Ecco, insomma, se dobbiamo riconoscere che questi contorni religiosi, di estremismo religioso di alcuni partiti vicini al Likud che promettono e vogliono e hanno ottenuto da Netanyahu che si passeranno delle leggi che daranno ancora più spazio al rispetto di certe norme religiose, ecco, se questo preoccupa, dobbiamo domandarci fino a che punto questa vittoria di Netanyahu c'è anche stata per l'evoluzione di un quadro politico che ha spaventato Israele e determinato anche da un voltafaccia americano. Insomma, giusto o sbagliato che sia, questa è la percezione di chi in Israele ha votato per la destra. Perché? Perché Obama a un certo punto ha dialogato con l'Iran, ha evitato la destabilizzazione del governo Assad in Siria, aveva promesso di tagliare quel canale che portava dall'Iran le armi a Hezbollah e minacciava Israele, di tagliare il canale che portava le armi ad Hamas. Insomma, a un certo punto nel 2012 ha virato, e questo indubbiamente ha spaventato non soltanto Israele ma anche l'Arabia Saudita, che ha espresso il suo disappunto per queste scelte dell'amministrazione Obama. Questo per dire che se in Israele c'è stata una virata a destra per paura di essere isolati, la spiegazione dobbiamo trovarla anche nella politica estera pratica di Barack Obama in Medio Oriente. E dunque è bene che Obama chiami presto Netanyahu, come peraltro vi ho detto ha promesso di fare, prenda atto di questa sua vittoria, cerchi di ripartire da zero per dare spazi al nuovo ministro, insomma per consentirgli di fare marcia indietro su alcune delle sue promesse. Altrimenti, se continuerà ad accusare la nuova coalizione di essere retrograda, antidemocratica, persino razzista per le dichiarazioni di Netanyahu sui partiti arabi, dovremo rassegnarci che per i prossimi 2 anni non ci sarà dialogo tra Washington e Gerusalemme, cosa che nel contesto medio orientale attuale non è nell'interesse di nessuno. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.